maglio. Mio genitore! Vattene, vesti l'armi e dei nemici gli ordini osserva, il sito e le falangi. Ma non pugnar e sfuggi i cimenti e gli incontri. E questa cavalier che il brando regge, del senato e del consolo e la legge.